Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Creare tessuti biologici artificiali tridimensionali su cui testare farmaci oppure condurre ricerche, è un domani perfino organi artificiali impiantabili nell'uomo. Tutto questo grazie al bioprinting, un filone della ricerca che utilizza la stampa 3D per ricostruire organi o tessuti cellula per cellula o quasi, insomma. Ebbene, tra i finalisti di BioApper, una piattaforma di training e accelerazione che supporta nuove idee di impresa nel campo delle scienze della vita, piattaforma nata dalla partnership tra Novartis e Fondazione Cariplo, c'era anche Golgi, startup che ha messo a punto una tecnologia di biostampa innovativa grazie alla quale sarà possibile fare un salto di scala nella produzione di questi tessuti artificiali. Questo almeno è ciò che pensa il nostro ospite Riccardo Della Ragione, 23 anni, laureato in biotecnologie e inventore di questa nuova tecnologia, appunto, che con altri 3 soci, tutti under 30 se non sbaglio, ha fondato questa startup. Golgi, buonasera Riccardo Della Ragione. Buonasera a voi. Allora, quali sono gli aspetti innovativi della vostra tecnica appunto di bioprinting, cioè che problemi avete risolto? Ormai tutti sanno più o meno come sono fatte quelle stampantine a filo, no? Stampanti 3D a filo, le vendono persino nei supermercati. Sì, voi, esatto, partite da una roba simile, diciamo così. Sì, esatto, è una tecnologia molto simile a una stampante 3D, solo che al posto di stampare plastica, per intenderci, stampa ovviamente materiale biologico, quindi cellule. Uno dei problemi principali di questa tecnologia è la vitalità cellulare. Infatti durante il processo di stampa le cellule muoiono durante l'estrusione perché vengono sottoposte a stress. Noi abbiamo risolto questo problema grazie ad un innovativo estrusore che abbiamo ideato. Di conseguenza superiamo uno degli ostacoli fondamentali per la creazione di tessuti artificiali. Dunque, ecco, ma nell'immediato quali potrebbero essere le applicazioni di questa vostra innovazione? Perché comunque gli organi artificiali trapiantabili non sono certamente dietro l'angolo. Per esempio, se ho ben capito, grazie a questo vostro lavoro, per intanto sarà possibile realizzare dei tessuti artificiali più grandi, perché queste tecniche appunto già esistevano, ma riuscivano a realizzare pezzi di tessuto molto molto piccolo. Ecco, che tipo di applicazioni possono avere questi frammenti di tessuto un po' più grandi? Ovviamente il tessuto più grande è molto più richiesto dalle aziende farmaceutiche, ma anche e soprattutto quelle cosmetiche. In particolar modo L'Oreal, nel settore della cosmesi, ha bisogno di una quantità ingente di pelle per testare tutti i suoi prodotti. Questa vostra tecnologia, insomma, consente che per esempio i test sui tessuti vengano fatti su tessuti che hanno dimensioni e strutture sempre più simili a quelli originali, e questo è uno dei temi. Anche la tridimensionalità è un fattore molto importante. Sì, infatti più ci si avvicina ovviamente alla reale forma del tessuto che si vuole emulare, più veritiero è il test che noi andiamo a effettuare. Tant'è vero che da uno studio condotto della Sigma Aldrich emerge che delle cellule tumorali polmonari coltivate in modo bidimensionale, quindi nelle classiche petri da laboratorio, possono essere facilmente uccise da una bassa dose di chemioterapico o di radiazione. Quando invece utilizziamo queste cellule in un ambiente tridimensionale, magari grande quanto la massa tumorale che dobbiamo andare ad eliminare dal nostro paziente, vediamo come questa massa sia più resistente ad alte dosi. Alle stesse dosi che prima ammazzavano, come dire, queste cellule tumorali, quando erano organizzate in un tessuto bidimensionale, diventano molto più resistenti quando la struttura è tridimensionale. E questo è uno dei tanti motivi per cui farmaci arrivati al penultimo stadio di sperimentazione, no? Quello prima immediatamente della clinica e che hanno grande successo, poi 9 su 10 non funzionano quando li applichiamo magari sull'uomo, no? Esatto, c'è un altissimo grado di fallimento di questi farmaci perché non c'è niente in mezzo, non riusciamo a testare sui tessuti, e questo è uno degli obiettivi più importanti anche della vostra ricerca. Senta, invece, guardando più avanti alla possibilità un domani di stampare degli organi da poi trapiantare, non su cui fare esperimenti, ecco, dal punto di vista delle tecnologie di stampa 3D quali sono le sfide da risolvere? Perché è un tema complicatissimo, ci sono tanti problemi da risolvere in tanti settori, ma nel vostro specifico campo? nel nostro specifico campo ovviamente il problema più grande adesso risulta essere la vascolarizzazione, infatti è molto difficile creare dei vasi che abbiano una tonicità tale da poterli permettere di resistere ad un flusso ematico. Ecco, a che punto è il vostro progetto, a che stadio siete dello sviluppo della vostra anche idea di business, che cosa vi serve? E attualmente il prototipo è terminato e funzionante, infatti l'abbiamo già testato anche all'Università di Parma con successo e adesso siamo alla ricerca di partner per lo sviluppo di prodotti spendibili sul mercato. Tra questi abbiamo individuato l'Istituto Mario Negri ed il Più Lab, un laboratorio di stampa 3D del Politecnico di Milano. Questi ultimi sono pronti, si sono dimostrati pronti ad aiutarci nello sviluppo di un prodotto. E adesso vi serve un partner industriale, insomma, qualcuno, no? Che investa. Ma soprattutto qualcuno che sappia apprezzare. Che possa utilizzarla anche nell'immediato. Esatto, sì, sì, sì. Grazie Riccardo della Ragione, in bocca al lupo. Grazie a voi. Va bene, è tutto anche per questa sera. Appuntamento come sempre a domani.